Dopo le polemiche e le critiche per i toni forti delle sue canzoni, Fabri Fibra porta il suo rap in testa alla classifica dei CD più venduti. Se l'hip hop va al numero uno come grandi cantanti pop, alla fine questa roba va un tot. Lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po'. Se lo spot dell'uso e consumo riguarda chi non fa mai flop, alla fine questa roba va al top. Lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po'. Il mondo diviso tra il bene e il male, ma sei così banale, minimale, meno male che non sai commentare, argomentare. Special esclusiva sativa e la mia canna è commerciale. Fumi come un collegiale di nascosto, in macchina a costo, in ogni posto chi spacca lo riconosco. Cerebro attivo, rap celebrativo, bambino cattivo, impara da Fibra, rap guida. Prendi l'arte e poi fanne parte, se non sei capace fatti da parte, che ne so, gioca a carte. Dalla casa degli spiriti alla casa discografica, dal disco alla grafica obbedisco alla raffica di idee che da dentro arrivano. Il caso è chiuso e gli agenti lo archiviano. Che fuori è fuori e che dentro è dentro, come il cazzo che da fuori va dentro è dentro. Se hip hop va al numero uno come grandi cantanti pop, alla fine questa roba va un tot. Lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po'. Se lo spot dell'uso e consumo riguarda chi non fa mai flop, alla fine questa roba va al top. Lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po'. Non credere mai agli altri, non fare storie, non devi mai fidarti delle parole. Un'esperienza di vita comporta morire, rinascere quasi come il sole. Persone sole, sale la pressione, solo un'impressione. Chiudo le persiane, è un'impresa, ma scritta impressa nelle buste della spesa. Cos'è una vita ben spesa? La gente stupida sta con gente stupida, che è veramente intelligente si dà la fuga. Cervelli in fuga, io stupido rimango in questo paese a farmi risucchiare come un mango. La testa gira come un tango, avessi la sfera sarei chi svela, aspetta e spera. Esatto, aspetta e spera che nessuno dica mai un cazzo. Se l'hip hop va al numero uno come grandi cantanti pop, alla fine questa roba va un tot. Lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po', lo dicevo da un po'. Se lo spot dell'uso